Dublino, dove Dublinarino. Già là, 2747. E oggi un buru che do dorato, finalmente. Sì, io viaggio dorato e agentato buru. 747 io ne ho due. Due più, cioè il B300 e il B550, anche non so, tutti dentro l'armadio. E là c'è il fare, ma so, anche non tanto, non li uso. Io ho l'RM Italy, che quello fa la bubua, a tre ventole, quello fa la bubua. Mettilo. Oggi buon nulla, ti ho fatto fare i segnali, hai visto come fa. Lascialo stare con me. Ciao. Dai, quando mi metto la Super Lem me lo impresti, col capo grosso. Va bene. Abbo di rampi lo giurico da radari e c'è stato un casino. Ma che legnare devo mettere ora qua? Che legnare devo mettere qua su? Ma cosa mi serve legnare a me? Legnare lo metto quando devo fare la bubù a qualcuno, allora sì, vero Condor? Aggiungare! Ah, se no cazzo, troppa luce da voi! Aggiungare! Vedi, quello è usarlo in maniera sbagliata. Si usa per avere potenza e lontananza, non per fare la bubua. In lontananza, è che in lontananza tu attacca il tuo 5-600 watt, io modulo con la radio, sto modulando adesso con la stessa potenza e arriviamo uguale. Che potenza mi serve a me? Beh, se c'è qualcuno che rompe le palle, allora per fare la bubua devi farti sentire di più, ma io non ne uso perché non ne ho bisogno già nei lineari, e l'ho sempre dimostrato, che cosa fai il lineare? Da qua su, a tuo lineare, ma ti diceva sempre, dalla tua posizione come che è un lineare da un chilo, ma ti sempre attaccato. Sì, non c'è nemmeno gusto, capito? È già ridusso così la posizione, l'altezza. Ma non l'hai visto quanto arriva a battata? L'hai visto con 5 watt? 9-10 arrivo con 5 watt, figurati quando attacco. Se tu immaginati che a me battata mi arriva più alto di muros, cosa che lineare devo mettere? Ancora devo aumentare, cosa devo aumentare? Va bene così. Io sono soddisfattissimo con il baracchini, con tutto, perché mi aiuta la posizione, Gianni, lo sai, che non mi devo attaccare, non serve a niente. Sì, già lo so, ma dico, magari in ex e roba del genere, in qualche posto lontano. Lo so che lì è una posizione come si deve, il nido dell'aquila. In DX, che è DX il vostro? E quando c'è preparazione non è visto che parliamo tutti sempre così, sempre con i 20, 30, 40 watt modulati della radio, se poi la propagazione è un po' balorda, dai appena più di gas alla radio, ma non c'è bisogno di lineare. Cosa? Non ne ho mai usato, guarda io, io ho il 911 della Kemper, anche il TL911, che è prima del TL922, ok? Se vuoi ti mando la foto. E praticamente l'ho usato una volta, un kilowatt e mezzo, l'ho usato una volta in direttiva in 40 metri perché c'era un contest. E siccome c'era il pair-up molto incasinato, non ti facevano entrare, stavamo a vedere un pidolo e balle. Ho tirato su, ho lasciato scaldare 10 minuti, come ho schiacciato, ci sono tutti i gaggati sotto. TL922, mi ricordo. Mamma mia. Però ce l'avevo il 27, ma non è più un modo di fare radio quella, ma non esiste, ma stai parlando degli anni 90. C'ho tutte le foto, 940, TL922, tutta la linea completa. Il 27, ma non è più un modo di fare radio quello, ormai non c'è più nessuno da combattimento. Quello nel periodo che facevamo i combattimenti e che arrivava a Villa Cidra, che arrivava lontano, io ho fatto in Vittorio, ma adesso cos'è? Siamo quattro, cos'è? Non c'è più soddisfazione, tanto è vero che uno, quello della Iaesio, lineare di linea, l'ho venduto e mi sono tenuto quello della Kenwood, capito? Ma non lo uso perché è un valvolare che consuma una barca di corrente e al posto di quello uso praticamente l'RM Italy, ma di lineari anche abbastanza buoni perché ho il B300, il 550, cioè lineare ne ho, ma cosa li usi a fare? Quando c'è una radio che dà 150 watt, cosa li usi a fare lineare già? Da qua su 150 watt, come ti sto dicendo, dice mio padrino, è come che usi un lineare da un kilowatt, non c'è soddisfazione. Io arrivo in capo al mondo, arrivo a tutte le parti, mi scelgono tutti che se ne fanno venire a dare di là all'Enel. Sì, hai ragione. Vabbè dai, io vi lascio e riprendo magari da giù, dai, porto giù il cane, vi porto il portatilino appresso, dai. Ciao, lasciatemi un po' di spazio quando scendo per vedere se mi sentite. Ciao ciao. Sì, è già, qua arrivati poi non lo so da altre parti, vabbè. Comunque, poc'anzi, c'era qualcuno che ci stava ascoltando e qualcuno che ci ha lamentato, non lasciavate bianco già, cioè era un ping pong totale, ho capito che stavate parlando di cose vostre, però quando c'è in tanti ruota rilanciate, perché poi la gente ce ne va. Care, boh, non lo so, se no non c'è problema, No, no, non c'è di tanto, è un altro discorso, no, non ti preoccupare. La gente ce ne va, capito? Capisco che l'euforia di ripetere, di parlare, di fare, di controbattere, però quando c'è un QSO se non fate girare la gente si innanda, poi non entra più. Vabbè, bando alle ciance, vai Marco, riprendi e fai girare tu, cambio. Sì, io quando sono rientrato, no, dopo aver mangiato, ho provato a inserirmi, ma è talmente veloce coso, Claudio, che ho arrugginito, non sentivi nemmeno quell'istante di stacco del QRM, niente, è come cadeva una portata e c'era già l'altra. Sì, vabbè, un po' veloci, ma anche a me sta venendo quel vizio, mi Claudio, magari non così accentuato. Magari puoi dire una cosa in fretta, no, ti viene una cosa al volo, no, che vuoi dire, e allora subito attacchi subito. Ehi, vediamo se è rientrato a proposito, chiedo arrugginito. Se è rientrato? No, forse no, dai, rilanciamo Riccardo. Riccardo, avanti. Sono pratico. Ehi, AK, dai. Vediamo se c'è ancora Riccardo. Niente, tanto vai tu, dai. Kappa. Ma Riccardo dove è andato? Vabbè. Può succedere, magari scappa qualcosa. Ma dai, già facciamo entrare tutti che già ci fa piacere. Sì, sì, ma adesso siamo più un po' più lenti, dai, nel riprendere. Certe volte è più serrata, no? Soprattutto quando trovi un argomento che ti prende, no? Un argomento interessante. Va bene, Hendrik. Chi altri c'è rimasto? Doppio Room? No, Doppio Room è andato a portare il cane. E tu, Claudio, il cane l'hai portato già? Sì, io l'ho portato. E Geronimo, io lo porto 7:30, 8:15, ho capito, quell'ora lì. Perché altrimenti poi è troppo tardi, anche perché il mio esce due volte solo, capito? Va bene, va bene. E quindi mi confermate che la radio così va bene, non strappa, bella forte, bella chiara? Sì, aspetta un po' che accendo la luce un attimino. Sì, qua è chiara, però mi è venuto un dubbio. È una bomba enorme, se guardi a fondo scala, sì. Allora Claudio, udisci, avevo il noise blanker inserito, non me ne ero accorto, eppure non strappa, perché tu sai che se l'emissione è troppo esagerata col noise blanker la proprio strappa, invece no, adesso lo tolgo pure, me. Sicuramente non dico che migliorerai, ma sarà ancora più limpida. Ehi, no, perché pulendo devo aver toccato il Mickey Gain ed era troppo alto, capito? Allora per quello. Questa è una bella radio, questa pompa veramente, sono rimasto molto, diciamo così, incuriosito, perché è un tipo di radio che praticamente non ho mai avuto così spinta, non ho mai avuto, vabbè, non la stavo usando, però è così, questa è veramente va. Mickey Gain è molto ma molto più basso rispetto al 440 e viaggia a 100 all'ora, già la senti, dai. L'ho tolto e ha migliorato, altro che, non me ne ero accorto, l'avevo inserito per prova, era già buona, ottima, ma adesso ancora di più, c'è poco da fare, il noise blanker, ecco perché uso lo squelch, Claudio, preferisco non usare l'ANL noise blanker, però mettere un filo di squelch, intanto da togliere il QRM. le motivazioni sono tutte più brillanti. C'è quando lo uso, solo se sono in macchina, perché in macchina è un po' il motore, le candele fanno quel rumorino molesto, no, solo in macchina lo uso, però da casa non ne uso più ANL e Noise Blank. Vai. Anche col K me lo faceva, lo sai, lo inserivo e mi falsava le modulazioni, le chiudeva, mi già capito. Uia, cosa si farà, vai Antu, vediamo chi c'è rimasto. Ma per caso tu c'è una macchina grande fuori strada? No, io sono povero, io ho un Opel Agila del 2000 che non è nemmeno mia ma è di mamma. Tu gelato dai magnato. Scusa Marcoliche, mia moglie ha attaccato un po' di elettrodomestici e mi è saltato salvavita. Cosa stavi dicendo? Dicevo che il Noise Blanker ANL non lo uso più in base. Preferisco usare un filo di squelch per togliere il rumore di fondo, perché mi falsa le modulazioni, anche col K mi lo facevo, anzi col K era ancora più accentuato l'effetto. E quindi non ne uso mai, solo in macchina uso il Noise Blanker, l'ANL, capito? Lo so. Purtroppo lo so, può capitare che succeda così, capito? Dipende sempre dalla radio. Sì, 140 se tieni inserito l'NB ti sfasa la modulazione, mentre vabbè il 440 non me lo fa perché c'ha tutti i filtri, tutti, c'è anche quello della MFM e se semici W, tutti ce li ha con la schierafonina, quella radio è completissima. Questa non lo fa. Evidentemente è da radio in radio, capito? Tutto qua. Va bene, non c'è altro nessuno? Chiodo, è rientrato o ci sei, Cla? Ciao Cla, alle prossime. Ricordere a Babbo quando rientra di controllare quella roba che gli ho chiesto, che poi già mi chiama lui. Ciao, un abbraccio, saluto a mamma e ci sentiamo. Vai Marco. Ciao Claudio, chiedo rigenito, dai, sentiamo in altre occasioni, ok? Buona serata, buon tutto, alle prossime. Riccardino non ha risposto, già ne ho più rumore, ha portato il cane, forse è rimasto Antonio e boh. Antonio, ci sei, il cenare di più. Oggi ho già mangiato. Ciao Antonio, chiedo a rigenito. Ciao, ci sentiamo, alle prossime, oggi ero in Mugiallo. Ciao Cla, ciao, le prossime ci sentiamo. Va bene, ok, comunque siamo qua. Anzi, me lo un bel ballo, quella. Hai capito cosa mi si è spaccato, cosa mi è caduto per terra? Il pomellone dell'Inuit, è un bel grande, che io ne ho, però sono piccolini, quindi non vanno bene. E c'hanno la plastica attaccata al pomello che segnava i canali. Il pomello dei canali è uguale o non si troverà? No, solo Gianni Capri mi può aiutare perché ne ha un paio di quelle radio e ha detto qualcosa ci aveva perché ce ne ha qualcuna che la sta riparando eccetera, capito? Quindi solo lui mi può aiutare, sarà un casino. Devo lasciarla sul canale 10, perché se la sposto non so in che canale sono. Non è un problema, già lo cerco, però è brutta così, capito? È manco il pomellone, ma non c'è la ghiera, quella trasparente dei canali. È caduto di punta, pam, invece è rigida, si è spaccata. Ho provato a incollarla con l'attacco, però non fa perché si vede la... Non mi spacca il canale in due, capito? Non fa, quindi devo cercare qualcosa, se no... Vediamo se trovo qualcosa su internet, ma comunque già ne metto di non preoccuparmi che qualcosa già c'è a lui. E poi avevi risolto, Claudio, per il famoso fregio della macchina, quello con la marca, come si chiama? Il fregio, dai. Sì, ho risolto, €50 mi stamattina, alle 8, da Roberto, e me l'ha piazzato, capito? Me l'ha piazzato, risolto, arrivato ieri, cioè arrivato martedì, giovedì... martedì, sì, mercoledì era impegnato Roberto, sono andato stamattina e me l'ha piazzato, sto a posto. Tanto €50, che io voglio ricordare sono 100.000 lire, non sono, insomma, riaga. Vabbè, tanto la macchina quando è nuova si fa, se lo rubano a me cosa ci metto? Una cedda ci metto, al posto del fregio Opel. c'è la cattiva se pongo un gabbo di carne l'ha attaccato con un freccio, ho portato un freccio. Animali, cazzo, mi hanno fatto un danno allucinante. Non ho per il freccio, non mi hanno fatto niente, perché non mi hanno mancato anche il cofano, capito? Lo sportellone di dietro. L'avevamo da poco, che l'ho tutta sistemata la macchina, lucidata, fatta. Abbiamo messo i freggi nuovi proprio con Roberto. Davanti e dietro, capito? Siccome li hanno visti nuovi ci hanno portato via quello di dietro, ma non ci hanno portato via anche quello di davanti. Se non avevo via 30 euro, capito? Lucì no, sempre in scioltezza. Vabbè, lasciamo perdere, quando ci sono i vandali, siamo vandali e basta, non c'è niente da fare. Avanti anche tu. Capo, a me sa che stava chiamando qualcuno. Avanti. Già ti sentiamo e tu mi senti. Ok, dai, adesso ti mando avanti Claudio se ti sente. Avanti Claudio. Sicuramente lui a me mi sente, ma qua non lo sento io. Io c'ho un abolotto di propagazione qua, Gianni passa malapena, è Santiago 7 Gianni, mi senti già? No, mi è sparito. Sta parlando. Scappa già. Magari se va appena più in alto ti sentiamo ancora meglio, perché qua... c'è un pochettino bassino, sei 5, 6, qualcosa del genere, dai. Non so se stia parlando, Parlando tanto. Io non lo sento più. No, neanche io. Ma perché c'ho un medico RM salito, ragione Marco, se no è sempre arrivato qua, non c'è problema. Beh ragazzi, io però vi saluto, sono 9:15, un saluto circolare a tutti, anche a quelli che sono in ascolto. Se c'è Massimiliano saluto anche a lui, Chiodo, Riccardo, Luca, insomma Marco, a te Antonio, Gianni, un saluto a tutti, domani io spengo tutto e vado a mangiare e poi mi guardo la TV, ok? Un saluto a tutti, buonanotte, grazie delle due chiacchiere, vai Marco. Ehi a Claudio, una curiosità, vabbè, ti volevo chiedere grosso modo il segnale com'era, poi ti dico perché. Adesso è 9:30 pieno. Ti spiego. Allora, mentre col 3009 sono 4 watt, il filtro mi ruba un watt e sono 3 watt. Con questo sono 12, il filtro mi ruba, che ne so, un watt e mezzo, 2, quindi sono 10 effettivi, 10 watt effettivi pieni. Però non è lineare, capito? No, quello non, ormai ce lo posso anche buttare, mi sa che lo regalo. Chi lo vuole, regalasi lineerezza 100 watt, perfette condizioni, come nuovo. Lo prendo io. Tu ce l'hai già, Anto, non vale. Vabbè, già regalo lo voglio sempre io. No, io ne ho 3 o 4 lineari così, sono tra 2 e 3. E allora a Gianni lo profetta, così lo attacca e aumenta un pochino quando c'è gente. Sì Marco, infatti mi sono accorto perché stasera nel primo pomeriggio non eri 9:30 pieno pieno, stai usando l'altra radio. Mentre con questo sei 9:30 pieno, mentre quando attacchi sei sul 35 passa. Capito? Quindi oramai il tuo segnale è già codificato, dai. Il tuo è anche quello degli altri, non c'è problema. Va bene, di nuovo un abbraccio a tutti, buonanotte, buon proseguo di qualsiasi opera che prosegue, ciao ciao. Eia, aspetta, ecco qua. Ecco, adesso sono nelle condizioni, presumo normali, cioè 4 col filtro, 3 watt utili. 3 watt utili, e c'è differenza. Va bene, dai, buona serata, buon tutto, Claudio, sentiamo. E alle prossime. Vai Antonio. E poi mi dici Antonio se senti Gianni, se sta chiamando ancora, perché qua c'è un abolotto di QRM, di propagazione. Ciao Claudio, sentiamo alle prossimine. Ciao ciao. Ciao, dimmi. Devo sentirlo, mettere un QRM. Allora, lui è appena entrato, al primo passaggio che ha fatto, qua arrivava 7,5 quasi 8, però nei passaggi successivi è subito calato, 7,5, 7 e poi sotto il 7 mi è sparito, troppo abolotto oggi. Si sento come tanti segnalini assieme a me praticamente. Fermo così, 7,5, adesso ti sento. No, fermo, hai trovato la posizione, adesso ci sei, adesso ti sento anche discretamente, 7,5. capa, cavolo, anche qua sei sette, già. Mi senti tu a me lì? Capa, cavolo, quando trovi la posizione giusta che si arrivi, cavolo, si arrivi. E naturalmente portando il cane lo deve far muovere, dai, non può stare immobile. Anzu, rispetto a prima, hola, e come mai qua non... Rispetto a prima la modulazione ha guadagnato è uguale. Guarda, ti faccio il passaggio, Anzu. Passaggio numero 1, 1-2-3-4-5, 1-2-3-4-5. Ancora, passaggio numero 2, 1-2-3-4-5, 1-2-3-4-5, stesso volume di voce, stessa distanza dal mic, lì mi si è variato. Ah, ma mi pare sempre precisa la situazione. Cioè, migliore così? Ah, c'è la cosa strana, pare strano anche a me. Allora, con 4 watt non vedevo picchi positivi, mi... non ne vedevo, adesso che ho alzato vedo anche picchi positivi, cioè al contrario di come dovrebbe essere. Vabbè, comunque allora io lascio tutto così, dai, sto manetta. No, qua arrivi fortissimo, arrivi, non hai nessun tipo di problema, con la modulazione è sempre uguale. Quella mi interessa, solo la modulazione mi interessa, sempre uguale, va bene, ok, meglio così, dai. Anto, io vista l'ora quasi quasi stacco, perché oggi un po' mi sono dedicato un po' di più, però adesso mi accendo la TV, mi rilasso, eccetera. E quindi saluto Gianni se mi ascolta ancora, Riccardo se l'ascolto, anche il Ruggito mi pare che sia chiuso, dai, saluto anche lui, comunque saluto tutti quelli all'ascolto, ok? E quindi riprendi tu Antonio, buona serata, buon tutto e alle prossime, vai Antonio. Ciao Antonio. Cavolo, mamma mia, non Sandro. Marco, salutoni Marco, ci sentiamo alle prossime. Gianni, ci sei? Scusate, avevo lasciato la radio accesa ed ero in ascolto senza... mi sono allontanato senza dire niente. Da saluto a Marco, gli auguro un buon quartiere, resto un altro po' e poi mi attacco a Netflix. Ma dai, avanti Riccardo, ti stavo chiamando. Cavolo. Pure tu Ricca. Stavo parlando, mi serviva la cosa Nutella. Nutella, così hai detto. Un bel lavoro la Nutella per la gambe il pomeriggio. Non mi piace a me. A me piace tanto. No, la verità no, non piace. È l'unica cosa che io non mangio. Infatti io mi sono sempre fatto overdose di Nutella, fin da bambino. Era la cosa che mi piaceva di più, che mi piaceva, adesso un po' meno però, sono andato un po' calando. Oh Ricca, per curiosità, ti sto facendo sentire il Roger Beep di questo apparato. E sembra di quei Roger Beep tipo PMR, mi. Sì, lo sento, molto bello, mi piace, sempre in dotazione con l'apparecchio o il microfono che lo fa? Tutto nell'apparato, tutto compreso nel prezzo. Ok, di nuovo, rinnovo i saluti, buona serata a tutti e quelli esecutivo. Ciao ciao. Ciao Marco, ce lo risentiamo. Avanti Recca. Vediamo se c'è rimasto qualcuno. L'avevo sentito a Claudio e poi ho sentito a te. Avevo sentito a Gianni, poi non mi ricordo se c'era altro, c'è rimasto qualcuno. Chi è che ha detto sono io? Gianni doppio Ruggia, ti intendo già. Adesso già l'ho capito, ma dove sei? Ma è immobile. Io non ho problemi a sentirti, tu bene mi senti lì. E che portati le c'hai? Questo passaggio, Intec, cos'è? Buono, cavolo, spinge. Magari non hai quello moderno, cioè quello un pochettino datato, no? Non sarà come quello che ci avevamo noi, no? Quello che c'è anche cosa per attaccare in macchina. Noi avevamo preso uno, bello, cavolo, c'aveva anche la cindisigari, tutto. C'aveva l'affare che andava dalla cindisigari a... come si dice... E ci poteva attaccare anche l'antenna grande, ci poteva attaccare, era bellissimo. Quello lì è rimasto a babbo, è rimasto. Senti Ricca, io non ho riesco a tirarlo fuori. Quest'ultimo passaggio non sono riuscito a copiarlo, ma se posso chiedere, Anto, se l'hai capito, ma stiamo andando col portatile da dove? Da casa? Ho portato il cane giù, ha portato, il portato della batteria. Ah, già va, se trovo il punto buono io qua lo sento, non ho problemi, no. Un po' che lo sento, Santiago 3 e molte volte Radio 4, però non pensavo che avevo queste prestazioni, che vabbè che siamo vicini, però mi sta arrivando benino da. Già pompano, già anche portata. L'unico difetto è purtroppo che ti mangia la batteria, tu stai usando le batterie, le stilo. Ah, guarda, io ne ho trovato uno che è tipo il Mustang, non so se lo conosci. Il Mustang, quello che usiamo noi nell'altra banda. C'ha la batteria interna tipo il cellulare, da. Bellino, eh. Ho capito, sì, il PMR che va in V e in U, che però si può usare solo per il PMR 446. Ma cosa c'è l'apparecchio per OCB, c'aveva l'antenna lunga e c'aveva quel tipo di batteria lì, non c'aveva le filo così, capito? Ho capito. Molto, molto, molto bellino. Ma se va in alto già lo sentiamo già. Cioè, perlomeno. Poco fa ho fatto un passaggio dove l'ho sentito, che è una meraviglia. Scappa. Ma tu ne hai, che radio c'hai? Sì, già, ti sento, dimmi. E scappa. Ma cosa è? Tipo, c'è anche la CD sigari, qualcosa per attaccare l'antenna grande già. E non ti ho copiato, dimmi. E scappa. E mandami una foto a vedere se è uguale come quello che ci abbiamo noi. Come quello che ci avevamo noi, dai. Quello che avevamo noi era una bomba. C'aveva anche il compander. Praticamente la modulazione l'amplificava, era una bomba che sta parecchio. E pare che usciva 10 watt pure. Anto, sì, dimmi. Vediamo per dirti se te le ricordi sicuramente. Io ho ancora quello che entra sul 10, addirittura quelli che hanno quell'antenna lunga, cos'è, tipo 2 metri. Gianni, come stai dicendo? Lui, da quello che ho sentito, è una roba moderna, io non ne ho di questi portatili così. Vabbè. Ciao, se ti metti nella posizione giusta già pompa. E che antenna stai usando, Riccardo? Io sto usando praticamente l'antenna, la Sirio Blizzard, che è una sostituta della Mantova, visto che non ne trovavo identica, più o meno identica a una Mantova, solo lo stesso numero di radiali e tutto, solo che gli manca come la Mantova, la spirale. Ah, 8 radiali, c'è cosa, Fusaro che sta vendendo la Superlab. Quelle pompano da una cosa impressionante, quelli fanno forte. Io da una vita, quando ho iniziato, che non ci vado da Fusaro, però l'unica cosa è che se gli chiedi qualcosa da odiarti ci mette un bel, avevo chiesto l'MB più 5, sono passati 2 mesi e passa. Adesso già ce li ha, no, adesso le antenne ce l'ha, perché gli ho chiesto io ce l'ha. Molto l'hai pagata quella lì. Questa l'ho pagata sui 150, una cosa del genere, l'ho comprata da un sito di Bologna che poi mi ha dato anche altra roba, un begentini che sembra che ti fanno lo sconto se dopo il primo ordine, se hai fatto un ordine, se il primo ordine supera i 20 euro, praticamente quando vai a doppiare la seconda volta ti applicano lo sconto se ti registri sul sito. Capo, le Sirio è come la Lemmy, sono cari, vabbè, però c'è un'antenna buona, la più fine. Lo so, ma tipo ho visto antenne che posso dire che secondo me non sono tutta sta gran cosa, tipo ho visto 100 euro la Midland, la Energy 5 ottavi, per me mi sembra un po'... non è tutta sta gran cosa, è piccolina, forse io che non ce l'ho, mi sbaglio, però non mi sembra tutta sta gran cosa, 5 ottavi tipo queste grosse che sono alte un be, e hai anche la garanzia della Sirio, della LEM. No, guarda, te lo posso garantire io. La Energy è un'antenna buonissima, qua ce l'ha anche Marco Condor, ce l'ha, è valida a tutti gli effetti, ce l'ha anche un altro amico mio, ce l'ha, vanno che una bomba, è valida a tutti gli effetti, è un'antenna buonissima, se li vale, quello che la paghi se li vale, te lo sto dicendo. Perché un amico che l'ha provata ha detto che non gli piace proprio, che si trova molto meglio con una Eco Sirio, che ha detto che le Energy non vanno, si sarà sbagliato, io mi stavo dicendo secondo quello che mi ha detto lui, quindi mi stai dicendo che comunque è una buona antenna per quello che la paghi. Ti fidare mai di quello che ti dicono, Reca? Cioè, ce l'hanno avuta in parecchi, ce l'hanno avuta e... Va benissimo, ce l'ha avuta anche Antonello, è perché gli hanno regalato una Mantova Turbo, se no avrebbe lasciato ancora quella, te lo sto dicendo, no, non ti sto dicendo cavolate, chi lo sa ti dice che va bene, perché non ho provato, in molti, Marco quanto ti arriva a casa tua, è fortissimo, cioè, un'antenna buona, no, quello non ci può dire niente, non le ci può dire, guarda, te lo posso garantire. Ho capito, poi mi aveva detto che è uscita anche, se non sbaglio, poi, uscita male, non so se l'hai mai sentita, la New Tornado 27. Non l'ho mai utilizzata. Però ho visto che è un'antenna che non è tutta sta gran cosa, è un po' piccolina, però... perché comunque la Energy, visto che è una 5 ottavi, stavo pensando più avanti di piazzarmela nel condominio, che nella casa di Alghero, perché non voglio piazzare antenne grandi, e quindi mi voglio piazzare un'antenna piccola che sia anche una 5 ottavi, quindi volevo piazzare quella forse. Guarda, l'isolamento, molti dicono il PL, metti lì il nastro vulcanizzante, no? Sai cosa li metto io? E non sbaglio, ma anche ADCB lo fanno. Gli metto il grasso o grasso di vasellina, e non entra acqua, glielo metto bene bene bene bene bene su tutti i contatti, poi scivola l'acqua, non ho mai avuto problemi da quando sto facendo quello. Una volta ho usato come cavolo si chiama, il vulcanizzante, mi è entrato l'IMU, cioè dentro si è... Hai capito cos'è quel coso verde? Ho capito. Già, guarda, dicendo. Non riesco a tirarti fuori, sei troppo basso, ovviamente sei troppo giù. Il grasso di vasellina con il sole si scioglie. Gianni l'ha detto. Io l'ho sempre usato, non ho mai avuto problemi. Dai, io vi lascio, se poi entra qualcun altro che vado a mangiare, già ci sentiamo dopo semmai. Lascio comunque la radio accesa. Dai Bianco, per me, dai. Già, io sto chiudendo, ce la risentiamo. Ok, un saluto a tutti, ad Antonio, a Gianni, a tutti gli altri in ascolto. Se non vi sento dopo, il tempo di tutti salutati.